5A. Ascolta e rispondi. Hai scritto a tuo padre? Sì, gli ho scritto. Hai telefonato al professore? Sì, gli ho telefonato. Hai risposto a tuo zio? Sì, gli ho risposto. Hai parlato al direttore? Sì, gli ho parlato. Che cosa regalerai a tuo figlio? Gli regalerò una racchetta. Che cosa presterai a tuo fratello? Gli presterò il motorino. Che cosa manderai al tuo amico? Gli manderò il mio ultimo libro. Che cosa dirai allo studente? Gli dirò di fare una composizione.